Buonasera a tutti e rieccoci qui per l'undicesima puntata di Geek Cookies. Sono successe un po' di cose in questo tempo che cui abbiamo lasciato soli, però siamo di nuovo qui pronti e arzilli, qualcuno meno e qualcuno più arzillo, per intrattenervi per una buona oretta con una cosa speciale. La prima volta che faremo sentire cose mai sentite da queste parti. Allora, stasera come guest abbiamo il buon Francesco. Buonasera. Buonasera a tutti e bentornati a G-Cookies. Buonasera caro. Allora, come dicevo, vogliamo fare una breve scaletta di quello che faremo, giusto per stuzzicare l'appetito degli ascoltatori. Allora, come al solito vi parleremo di un po' di news veloci, di cose che abbiamo reputato interessanti da dirvi, da raccontarvi, e abbiamo un bel, diciamo, un piatto grosso che il buon Francesco ci proporrà. Ci vuoi dare un assaggino di cosa sarà questa cosa? Oh yes, sono andato in trasferta, nel senso che ho preso la macchina e ho raggiunto il Fab Lab di Torino e ho fatto un'intervista al responsabile, quindi vi proporremo l'intervista al Fab Lab. Prima vi facciamo una breve introduzione e poi vi faremo ascoltare questa mezz'oretta di intervista. Ok, perfetto. Quindi fatto ciò, poi come al solito vediamo un po' se ci sono robe di ascoltatori, robe del genere, robe dei social, ma si sa che stasera siamo un po' scarsi, quindi andremo un po' veloci. Quindi cominciamo subito nel vivo delle news. Che abbiamo di bello e interessante dei nostri ascoltatori? Francesco, vuoi introdurci? Allora, io direi di cominciare con delle cose molto molto per Maker. Innanzitutto mi mangio le mani per non essere andato alla Maker Faire di Roma, poi ho visto le foto, ho visto quanta gente c'era e ho pensato che il mio divano era un posto molto molto più tranquillo. E poi un'altra cosa importantissima, finalmente si può comprare il nuovo Genuino in Italia. Che cos'è Genuino? Genuino è il nuovo marchio di Arduino per l'Europa, dopo tutti i casini che ci sono stati con il blocco di Arduino che si è allontanato, che ha fatto un altro sito, non so se vi ricordate, ne abbiamo parlato qualche puntata fa. E quindi ora finalmente su arduino.cc si può comprare la nuova scheda che si chiama Genuino. C'è la Genuino 1 e, se non mi sbaglio, c'è la Genuino Mega. Senti, quindi ricordami un attimo, la Genuino è quella della fazione in cui c'è Banzi, per capirci, è quella. Sì, giusto. Allora, okay. Praticamente faccio un riassunto. Sì, veloce, perché già l'abbiamo parlato. È successo che il compare di Banzi è uscito da Arduino, visto che il marchio non era registrato in Italia, se l'è portato dietro e ha fatto una sua nuova società che ha chiamato Arduino e ha registrato il marchio. In America, se non sbaglio. No, in America il marchio era già del gruppo Banzi. Ah, ok. Madonna, quindi ora okay. Il gruppo Banzi ha fondato una società nuova, che poi sono sempre gli stessi, che si chiama Genuino. Ah, quindi okay. La stessa scheda viene venduta con nome Arduino fuori dall'Europa e Genuino in Europa. È la stessa identica scheda, ma con due brand diversi. Ah, ok. Vabbè, un casino, quindi, della Madonna. Quando si calmeranno le acque, magari fai una puntata dedicata. Avevamo intenzione di cercare di invitarli, però, come dire, quando sono beghe legali in mezzo, è meglio non metterci il dito in questa ma roba. Noi ci abbiamo provato, ci hanno detto ma meglio di no, meglio aspettare, li stiamo tampinando da luglio, quindi no, ma io vorrei evitare poi, se uno invita una sola delle due parti, di sembrare troppo per quelli e di andare contro gli altri, perché noi alla fine vogliamo bene a tutti, basta che ci danno gingilli in cui giocare, per noi va bene tutto e che non costino troppo cari. Esatto, economici e tanti. Perfetto. Esatto, così. Poi vai tu con la prossima. Ok, allora, quanto sembra dall'ultimo Kickstarter della U2 hanno cominciato a consegnare la U2 Neo, di cui parlammo qualche puntata fa. Kickstarter quindi è andato, come dire, è stato di successo grazie alla U2, che comunque è un marchio e ormai una schedina affermata grazie alle sue peculiari caratteristiche. La U2 Neo, se non sbaglio, era quella più che montava un Linux, non mi ricordo. Allora, la U2 Neo è, secondo me, la scheda SoC embedded attualmente più evoluta che c'è sul mercato, nel senso che ha dentro il sistema operativo, ha dentro una pardon, un ARM, quindi con Linux, a Arduino nello stesso chip Ah, dove c'è l'ARM. Tra l'altro, via software puoi attivare o disattivare la parte di chip di Arduino o quella di ARM per risparmiare corrente. È compatibile con gli shield di Arduino, ha degli Madonna. altri pin per fare GPIO per il Linux. Ed è dotata di accelerometri, giroscopi, ha il wifi a bordo E il Bluetooth. e ha il Bluetooth. È un piccolo mostro grande, Minchia. attenzione, come una Arduino Uno, un po' più grande di una Arduino Uno. Quindi non è più grande come la Udo, quella vecchia, che Sì, chiaro. è un bel piattello. È proprio piccola ed è spettacolare. Per chi No, scusa, vai, vai. per chi era. Perché ha fatto il Baker con Kickstarter, stanno consegnando, sono cominciate ad arrivare le prime a inizio settimana su Twitter. È pieno di gente felicissima perché è arrivata la scheda. Per chi non ha partecipato, sarà disponibile da novembre. Questa per fare progetti di legando hardware, software, tipo come diciamo nelle altre puntate, Raspberry e Arduino insieme, è l'uovo di Colombo proprio, fantastica. Soprattutto la fai su mezzi, cioè su cose che si muovono, perché lei è tutta, cioè si localizza nello spazio, sa quali forze sono applicate sulla scheda stessa. L'unica cosa Ok. che manca da mettere esternamente, eventualmente, è l'antenna GPS. Vabbè, questa cosa adesso che mi ricordo ne parlammo e io ero un po' scettico sull'idea di avere tutti questi sensori che sono prettamente per mobile in una schedina del genere. Poi se fai un'applicazione mobile, cioè come dire, un'applicazione hardware mobile, quindi non so, qualcosa che sta su un veicolo in movimento, un pallone sonda, su un'auto, quello che vuoi, può darti un sacco di informazioni già di suo quando nasce. Infatti, senza dover mettere dei dispositivi esterni, se sei piccolo, che è tutto sulla stessa scheda, è molto molto comodo. Li interroghi già nativamente, è uno spettacolo. Ottimo, quindi ok, questa è una roba a cui pensarci. Quando avrò tempo nella prossima vita, Penso pure io, non so se nella prossima o in quella successiva. quella prossima è già tutta piena di altra roba. Ok, perfetto. Ottimo, ok, come altra notiziola veloce. Ah, c'è quella che se siete ricchi e vi potete permettere di ordinare un minimo di 3.000 Raspberry Pi, potete ordinarli con la configurazione che volete. Quindi potete espandere la RAM, mettere delle schede aggiuntive, però solo se ve ne servono 3.000. Vabbè, ma a Quindi. chi non gli servono 3.000 Raspberry a tenere in garage? Ma in Scusa. garage no, però magari se li rivendi. Beh, effettivamente, però se li rivendi dove. Cioè, questo penso che sia pensato per un compratore. Adesso tu ne compri per. Come dire, tipo tu che lo vendi a una società o un'industria che gli serve un'applicazione particolare, lo fai customizzare e gli rivendi tu 3.000 o se li fanno loro, però. Non so, oddio, però se fai anche per dire, potrebbe essere un'ottima idea per un Kickstarter. Se fai un Kickstarter con un'applicazione molto specifica, te li fai fare direttamente come ti servono, tipo senza porte. Tipo, noi l'abbiamo fatto in laboratorio, abbiamo cominciato a levare le porte Ethernet. Il problema è che però la scheda di Arduino è fatta a multilayer, quindi se è di Arduino, scusami, di Raspberry. Quindi se cominci a Eh sì, devi dissaldare i componenti, succede l'apocalisse, cioè abbiamo bruciato schede così. Eh essere molto molto bravo a dissaldare sì. così, perché poi se sono saldate in SMD è ancora peggio, se No, scaldi troppo sì, fondi le ovvio. piste è un casino. No, a parte quello, non, se non sbaglio, la porta Ethernet è through hole, cioè con i buchi classici, però c'è un layer di piattine in mezzo tra i buffer. Quindi il Ah, PCB non è ecco. solo doppia faccia, ma c'è anche dei layer in mezzo. Quindi se bruci o attacchi qualcosa lì dentro, addio, butti la scheda. Allora, se serve senza è più Esatto. facile fare un ordine così. Esatto. Ne usi una e le altre 2.999 ce le regali. Eh no, si Boh. chiama backup. Se si brucia, scusa. Alla faccia del Vabbè, vogliamo essere backup. sicuri. Ottimo, perfetto. Tra l'altro, penso anche colori e robe del genere si potranno personalizzare. A questo Allora, punto penso proprio di sì. sì, se c'è soldi a pagare 30.000, sì, te li fanno colorati come vuoi. Poi mettiamo un link. Se non mi ricordo, non mi ricordo chi l'aveva. Chi lo fa questo servizio? È una società di elettronica grossa Ma inglese. vado a trovarlo il link, Article non è un 13, problema. una roba del genere, non mi ricordo esattamente. Non era la RS, era qualcos'altro. Comunque, allora, grande richiesta, vi porterò un altro crowdfunding, era un po' che non riportava qualcosa di strano. Stavolta la roba non è tanto strana, perché è sempre una piccola schedina. Fondamentalmente è una piccola schedina con un Atmega 328 su, che è tutta completamente pensata per essere il tracker per palloni sonda. È un piccolo oggettino che si chiama TrackSOAR e è compatibile Arduino, e su c'è una serie di sensori, quindi sensori di pressione, sensori di umidità, c'ha dei ricevitori radio e trasmettitori radio, e poi una serie di digital input output. Quindi è grande come un Arduino Nano Pro. Francesco, se non sbaglio, sono quelli sottili sottili e lunghi. Sì, sono mi pare che l'Arduino Nano sia quello che si può mettere direttamente sulla breadboard, quindi è largo, sì, molto... circa come un dito. Esatto, una roba del genere, cioè, come form factor è lo stesso, quindi penso che sia fatto per essere staccato direttamente su un Arduino Nano. Quindi fondamentalmente voi avete questo oggetto che si occupa di comunicare, di sentire quindi temperatura, pressione, quindi altezza, attaccate a un pallone, e sul sito del Kickstarter è molto carino, vi fa vedere come potete tracciare direttamente su Google con i dati, su Google Maps, dopo che avete lanciato il vostro bel pallone sonda, dove stava il pallone in 3D, eccetera. Quindi è un progettino carino, e l'oggetto, se non sbaglio, il minimo costa $35 e il backing... il pledge minimo per ricevere la schedina, che non è tantissimo per un oggetto del genere. Tanto mi sa che stava andando anche discretamente bene. Mancano 4 giorni, esatto. E sono a $13,000 su 22. Secondo me non ce la fanno. Ah, il nostro ascoltatore che compra 3.000 Raspberry non può dargli un $10,000 così subito. Ecco, così è di botto. ma il fatto è che noi non usciremo tra 4 giorni, e quindi sarà perso. Questa volta ci proveremo, dai. Va bene. Se no li diamo noi sulla fiducia e gli ascoltatori ce li ridanno. Che dice? Sarà certamente così. Sicuro. Senza ombra di dubbio. Perfetto. Allora, come altra chicchetta che volevo darvi, questa qui è una cosa random che ho trovato nella rete. Dato che io come ragazzi ho parlato un po', che ho avuto dei lievissimi problemi con la mia mailbox che sta esplodendo, e quindi ho cominciato a dare un'occhiata a quali sono le possibilità per tirarti giù le mail e averne un backup locale e poterci lavorare. Io stavo lavorando a un progettino per separare gli attachment dalle mail, quindi tutti noi vediamo le nostre mail box, la maggior parte del volume è fatto da attachment che a un certo punto diventano inutili, quindi pensavo di suonarli da una parte e tenere tutte le mail in remoto. Questo oggettino che ho trovato è uno piccolo script, quindi penso che giri sicuramente su Unix e Mac, su Mac gira sicuro, su Windows non ci posso mettere mai sul fuoco, perché se non erro dovrebbe essere basato su Python, è basato su un altro progetto che dovrebbe essere Offline IMAP, che è un famoso progetto in Python per tirare giù mail in locale. Questo Python si esatto. Può comunque mettere su Windows, quindi... No, esatto, se è così, non vorrei aver detto una cavolata, che non è basato su Offline IMAP, perché se non erro... sto dando un'occhiata e non fa riferimenti a POP3, quindi se fa solo IMAP allora è basato su quel progetto ed è Python, e quindi lo potete usare anche sotto Windows senza nessun problema. Il bello è che è molto semplice da usare, gli si dà tutte le configurazioni di account, password, se avete la password a due fattori, avete la password ex, eccetera eccetera, quindi fatelo sempre, e ti tira giù una bella bel blocco di tutte le tue mail, ci metterà un botto di tempo. Io l'ho fatto con un paio di account con qualche centinaio di mail, ci ha messo qualche minuto. Quello mio vero, quindi ho diverse decine di migliaia, ci metterà ore. Però una volta che l'avete fatto, avete tutte le mail copiate giù sulla vostra macchina. Poi come ve le leggete, se volete avere altre informazioni ve lo spiego, però è un po' un casino trattare le mail rozze, diciamo. Però per chi vuole avere una copia di backup sempre, penso che sia una bella, un bel affarino open source, tra l'altro, è facile da usare. Ti aggiungo due piccole cose, visto che io uso Google in ambito professionale. Uno, attenzione ai limiti IMAP. Google mette dei sì, limiti di traffico in IMAP, quindi se avete davvero tante mail e a un certo punto si incarta, io ora non so se lui fa il differenziale, potreste dover fare il lavoro in più giorni. Però se avevo letto nella mailing list di quell'altro programmino di Offline IMAP, il problema grosso è sul numero di thread paralleli, quindi dato che tu puoi far lavorare questi programmi con più thread, quindi si collegano con questo account parallelamente, quello è un grosso limite, cioè Google ti stronca subito. Sul volume non lo so onestamente. Sì, se non erro hai, non vorrei dire una fesseria, ma tipo un giga al giorno in download, ah, okay, e mezzo giga in upload, quindi se è la casella di posta da 15 giga ci potrebbe volere anche due settimane per scaricare. Ma se è una tutto. Cosa che metti in background, lascia stare lì e ciao. Ah beh, sì. Cioè, lo fai con calma. Un'altra cosa che se volete avere tutti i vostri dati di Google, Google ha un servizio che è molto funzionale che si chiama Google Takeout. A Takeout. Se andate su Google Takeout, gli dite cosa volete scaricare, quindi solo drive, la posta, i contatti, scarica tutto, e della posta vi fa un enorme file mbox che potete convertire con un tool, se non erro gratis, in PST. E a questo no, punto, perché ti prego, comunque se non erro mbox lo legge anche Thunderbird. Sì, mbox è il formato, questa cosa l'ho studiata proprio per questo problema. Mbox è il formato standard che usa anche mail di Apple, quindi se lo metti nel posto giusto dove va a leggere le mail, puoi leggere direttamente con quello anche. E quindi lì se volete ogni tanto farvi un backup totale globale della vostra posta, potete farlo. Io ve lo consiglio, perché comunque chi usa il servizio gratis di Google sa perfettamente che Google potrebbe alzarsi la mattina e dire basta. Sì, cioè noi viviamo sul filo di un rasoio, secondo me, perché ci affidiamo totalmente alle mail gratis. Io pago e sono un attimo più tranquillo. Devo essere sincero che per l'uso che faccio di Google Drive e di Gmail, dargli questi 96 euro all'anno per avere 10 tera non ha... Guarda, ne ho parlato spesso, ne vale la pena. Ne ho parlato spesso con colleghi. Cioè, tu prendi tutti i servizi di Google che usi correntemente e volessi quantificare il valore, io non lo so fare. Cioè, 100 euro... ma anche di più, cioè mail, noi stiamo parlando adesso con Hangout, chattiamo regolarmente, documenti, cioè, milioni di cose, non è quantificabile come valore di mercato, secondo me. E Google il valore lo ha dato. Puoi spendere 40 euro all'anno e avere 30 giga, oppure ne spendi 97 e se hai meno di 5 account hai 10 tera. Loro scrivono un tera, ma io nelle informazioni ho sempre visto 10. Oppure se hai più di 5 account, lo spazio non ha limiti. E lo spazio è la somma di Google Drive più la posta. Beh, ma... tenendo conto che i file di Google non pesano. Ah, quindi giusto. Se fate i documenti Google, lo spreadsheet a Google non sono come quelli di Microsoft Office, però esatto. Loro non pesano. Fate una presentazione piena di immagini e video e a spazio zero. Figo. Ma questo alla fine tu paghi lo spazio che per Google è costo zero praticamente. Io parlavo proprio dei servizi. Cioè, se uno venisse, tu quanto pagheresti per un servizio di mail fatto bene come Google? Solo per il servizio di mail? Io 100 euro l'anno li dice, cioè, occhi chiusi proprio subito. I 100 euro se mi danno tutte le garanzie. Poi, tra l'altro, quello professionale di Google ha il log. Puoi andare a guardare il log, puoi fare dei giochi di reinstradamento delle mail quando arrivano o quando se ne vanno. Ok, quindi tutto il server di mail. Si può fare roba assolutamente di un certo spessore. Puoi decidere chi manda mail solo in azienda, chi le può mandare fuori. È fatto molto bene. L'unico difetto vero che ha è sulla condivisione dei contatti. Non esiste. È veramente scomodo. Però per il resto funziona benissimo. Vabbè, quello è sempre come Google, che tutte le robe sono beta, quindi alcune cose le tengono lì che le stanno sviluppando. Ma quello che è professionale non è beta. Ok, non lo sapevo. E tu puoi scegliere di... quando ti abboni, loro ti fanno stare nel ciclo di rilascio lento, cioè in tutte le cose che hanno dato per certo che manterranno per un certo periodo. Vabbè, la stable, praticamente. Perfetto. Se invece tu usi Gmail... ti arriva tutto, perché okay. Tu che usi @gmail.com sei quello che sperimenta. Quante volte è successo che hanno messo dei servizi e poi li hanno tolti? Sempre, praticamente. Se tu non glielo dici ai signori di Google, loro questi servizi qua non te li forniscono. Te li forniscono solo se diventano stabili. Ok. È un altro modo e secondo me funziona molto molto bene, soprattutto perché hai un pannello di controllo, puoi È molto granulare la faccenda, ti puoi fare gli alias, puoi fare i gruppi, è una cosa spettacolare. Tra l'altro, per esempio, i gruppi dentro Gmail sono gratis e non hanno limiti di spazio. Ovviamente, Madonna. Comunque io non lo uso, diciamo, marginalmente perché è una cosa che ha fatto mio fratello, però quando inserì prima che facessero Google per Business, diciamo per Enterprise, c'era un periodo in cui potevi avere Google Gmail comunque sul tuo dominio. Quindi Gmail, tutti i servizi. Noi l'abbiamo fatto prima, quando hanno fatto diventare a pagamento che hai tu, quelli vecchi hanno mantenuti free, cioè noi abbiamo ancora un account sul nostro server comprato e lì ci possiamo, ci facciamo girare tutto, dati, Google, documenti Google Mail, alias, quello che dici tu. Non penso che così avanzato come il tuo, però abbiamo praticamente qua tutta la roba che normalmente le altre persone pagano, perché ce l'abbiamo da anni, anni, annissimi. Guarda, devi solo guardare se puoi entrare in admin.google.com e fare tutte queste cose qua. Ma ok, giusto, parenti, col tuo account del tuo dominio e lui ti Sì, fa sì, sì. fare. Ovviamente solo se sei un amministratore del dominio. Poi io di Ecco, account ne quello. ho uno e quindi uso quello ed è anche lui l'amministratore. Per esempio, Inbox ho dovuto aspettare quasi un anno per poterlo avere. Aspetta che sto caricando live mentre parliamo e si inchioderà tutto, ovviamente. No, non farlo, per favore. Eccolo qua, c'hai ragione, cacchio, ce l'ho. Ah, che figata. Ecco, entra dentro, guarda tutto quello che puoi fare. Ecco che è un po' arzigogolato. Non sono stati molto bravi nel gestire le cose, però puoi fare un sacco di roba. Oh, c'è anche un Google Admin sul mobile, puoi scaricare Sì, sì, l'app. sì, sì. Io ho Interessante. l'app, se qualcuno si dimentica la password la posso resettare da lì, si può fare un tot di roba. Questo è figo. Ok, metteremo anche la, non penso che i nostri utenti abbiano tanti abbiano sta roba, però se interessa ve lo mettiamo. Bene, Ok, poi. abbiamo divagato leggermente, torniamo sui nostri binari da maker. Abbiamo una notizia in super anteprima. Volevamo che questa notizia qua ve la potesse dare Massimiliano, ma la sua connessione internet questa sera lo ha abbandonato, quindi non c'è. È un Uscirà sabotaggio, sabotaggio. uscirà a breve, breve, breve volume 2 in beta, penso pubblica. Di conseguenza, tra qualche giorno potete scaricare e metterla sulla vostra schedina e vedere se funziona. Io lo farò subito, così magari riesco ad attaccarla sulla mia wifi del MikroTik, perché l'attuale sulla wifi del MikroTik non ne vuol sapere di attaccarsi, Sì, quindi lo farò subitissimo. ricordavo che avevi dei problemini però sulla wifi. Sì, guarda, è una roba scomodissima. Ho dovuto fare su quel volume una rotta particolare perché volume sta sulla rete del router Telecom. Io poi ho il router MikroTik che sta su un'altra rete e devo fare in modo che i due si parlino. Esatto, E quindi gli ho dovuto fare bridge che volano. una statica su volume perché sennò non riuscivo poi a Trovarlo, controllarlo oddio mio. ed era veramente un casino. Vabbè, da come ho letto su Twitter ultimamente, la tua rete di casa è peggio di un labirinto, se ho capito. Mi sono dovuto fare uno schema per evitare di perdermi, Ma perché sono ho 1, 2, 3 sottoreti, una quantità di pistatici, 2 di DHCP server, insomma è un po' un casino. Ho 1, 2, 3 wifi, perché Aia. E non ho... si, non si, non si, come dire, non vanno in collisione tra di loro. No, perché dunque, la prima, quella del router Telecom, è sul 5 GHz e Ah, quindi non ok, rompe le l'app scatole, 2. perché le altre due sono del MikroTik, sono sul 2 GHz e 4 e sono gestite tutte e due dal MikroTik, quindi è una wifi Ah, sola con due nomi, uno è quello per gli ospiti che col firewall esce solo su internet e basta. non è una cattiva idea, devo farla anch'io, perché va a collegare gli ospiti nella rete interna e password e tutto. No, io ho una rete che ho chiamato per gli ospiti. Quando viene qualcuno che dice: "Senti, ma ce l'hai il wifi per il telefonino?" C'ho un fogliettino col nome della rete e password, loro si attaccano e io sono certo che non vanno sulle mie macchine. Sui siti brutti anche. Ma sui siti brutti possono, è fatti ovvio loro. Che è gente di cui mi fido abbastanza. Ma è tipo siti brutti, tipo blocchi tutti i podcast di tecnologia che non siamo noi, per esempio. Ah, ecco. Quelli sono siti brutti, il resto non mi interessa. Ho capito. Ok, perfetto. Quindi direi che con questo abbiamo concluso la parte di introduzione. Dai, siamo a 25 minuti, direi il tempo perfetto. Ok. Allora, vogliamo cominciare a parlare del nodo grosso della questione di questa sera. Quindi Francesco è andato a un Fab Lab. Allora, voi vi starete chiedendo dall'inizio della puntata, ma che cos'è un Fab Lab? Diciamo, Fab Lab è l'abbreviazione di, non so, in italiano penso è laboratorio di fabbricazione, una roba del genere. È una roba simile, sì. Sì. Vabbè, quindi viene da Fabrication Laboratory in inglese, quindi più o meno è un laboratorio di fabbricazione. Come idea è un posto dove potete andare e potete, come dire, avete a disposizione una serie di macchinari. L'idea fondamentale da cui nasce è quella della fabbricazione digitale, quindi c'è una serie di macchinari che vanno da stampanti 3D, macchine CNC a controllo numerico, roba per fare orientarsi laser, quello che vi passa per la testa, dipende ovviamente dal singolo posto dove andate. Poi sono dei standard a cui devono adeguarsi e voi potete andare lì in varie forme, cominciare a usare gli oggetti che hanno loro, previa un mini, diciamo, una mini introduzione corso. Cioè non potete usare una macchina CNC enorme senza sapere manco cos'è. Quindi fanno, no, un corso, esatto. Diciamo che loro fanno il corso e valutano se tu sei in grado di usarla oppure, esatto, no. Cioè non puoi andare lì e prendere un robot e usarla e cominciare a spaccare tutto, quindi. Giusto. Tra l'altro sono macchinari anche di un certo costo, quindi non vorrei. Beh, al Fab Lab di Torino hanno una tagliatrice laser, hanno un robot Comau, hanno delle frese. Se non sai come che si usa, finisce che ti fai anche male. Tra l'altro, infatti. Quindi questo sì, e poi tra l'altro vi spiego. Io mi sono un po' documentato, visto che non ci sono stato, do solo un'occhiata accademica, quindi ho solo letto. Francesco sei stato, quindi poi ci darà anche le sue impressioni. Comunque, questo è in generale, come stavo dicendo, questa cosa tra l'altro è nata per la prima volta da un progetto fatto da un professore all'MIT, se non sbaglio, nel 2001. Quindi questo professore che si chiama, un attimo, stavo vedendo, che non me lo ricordo, ce l'avevo scritto da qualche parte. Era il professore, eccolo qui, è Neil Gersenfeld. Quindi questo professore ebbe un finanziamento per poter cominciare a tirare sul laboratorio per quella che lui chiamò la rivoluzione dei bit, una roba che io lessi anche su Mac qualche anno fa. Quindi l'idea di poter costruire tutte le cose che esistono a livello digitale, poter riprodurre nel mondo reale. Quindi voi avete un modello 3D di un oggetto, potete intagliarlo con una CNC, potete stamparlo con una macchina a stampa 3D, eccetera. L'idea era quella di riprodurre in piccolo le produzioni di scala, però è una cosa che non si è mai avverata, perché ovviamente le produzioni di scala ce l'hanno, hanno il vantaggio di fare scala. Quindi se tu vai lì e ti costruisci il tuo dadino che serve per avvitare la tua particolare cosa, non competi con un'industria, però produci un oggetto che puoi fare solo tu e che serve solo a te. Quindi sono diventati, come dire, dei centri di eccellenza per la produzione autonoma e per imparare. Quindi, come leggevo in vari posti, uno degli accenti principali dei Fab Lab è anche come dire, la didattica, cioè loro ti insegnano dopo che tu sei passato di lì e hai imparato qualcosa. Quindi usare una macchina prima non l'hai mai visto, sai cos'è quella macchina e hai dei concetti di base di come, diciamo, produzione industriale, però a livello piccolo. Quindi cose che normalmente tu non impari se non hai fatto uno, cioè non l'hai proprio studiata o hai imparato nella vita lavorativa. Questo a livello mondiale. A livello mondiale sono diverse centinaia di Fab Lab in tutto il mondo. La cosa carina che leggevo, Francesco, è che c'è, cioè, da qualche parte, ma sulla Wikipedia diceva in tutti i continenti ci sono i Fab Lab tranne che in Antartide. Cioè sono anche in Groenlandia, se non sbaglio. Ah, fantastico. No, in Antartide hanno avuto qualche difficoltà per, sì, per la corrente elettrica per le macchine a controllo numerico. No, magari le numerico. Macchine a quella temperatura non vanno, che ne so. Ah, può anche essere, può essere. Sì, sì. Però ci hanno provato. Ok, questo è a livello mondiale, ce ne sono quindi diverse centinaia, dovrebbe essere 500, una roba del genere. Poi vi daremo i link precisi. E in Italia, su questo articolo che avevo trovato, questo è andato fine 2004, dice che noi siamo circa i terzi al mondo per il numero di Fab Lab. In Italia, diciamo, l'idea del Fab Lab è nata dopo diversi eventi, da cui la Mac Fair di Roma, la prima di cui parlava Francesco, anche una riunione a Torino che avevo letto, dove tra l'altro è stata anche fatta e fondata quella che si chiama Make in Italy, che è una fondazione che si occupa del movimento Makers. Ai fondatori c'è anche Banzi, per dirvi. Loro si occupa... Santo Banzi, esatto, sempre santo. San Banzi, dovremmo fare i santini un giorno, con dietro il nostro... Poi scrivita, perché questa vorrebbe... No, non sembra, guarda, poi metteremo sul blog le 4-5 foto che ho fatto al Fab Lab. Loro ce li hanno i santini. Hanno delle specie di quadretti fatti con la macchina a CNC, quindi li hanno bruciati sul legno come se fosse fatto con il pirografo. Okay. Delle persone che secondo loro sono dei santi, dei maker di eccellenza. Ok. E adesso vado a pescare perché alcune sono bellissime. Ok, poi le metteremo, le twittiamo sul nostro feed. Sì, uno è per esempio Willy il Coyote. Ah, lui, okay, è un maker per eccellenza. Mucciaccia, no? Mucciaccia non mi viene in testa, chi è? È quello di Art Attack. Ah, cacchio, sì, lui è il re dei makers. Ecco, c'è c'è il dottor Emmett Brown. C'è MacGyver, per curiosità. C'è anche MacGyver. Stai, grande. Sì, c'è quello, c'è il nero delle A-Team. Ah, giusto, è P.E. Baracus. Sì, lui. C'è Frankenstein Junior. Giusto, C'è quello di Mi si sono ristretti i ragazzi, di cui ora mi sfugge il nome. E c'è il famosissimo M di 007. Ah, giusto, beh, grande. Guarda, okay, è veramente, veramente carino. Grandissimo, però il Sam Banzi non ce l'hanno, quello potremmo commercializzarlo noi e fare il copyright. Dai, ci proviamo. Comunque, come stavo dicendo, quindi in Italia c'è questo movimento ed è molto forte, quindi, come dire, un mix tra makers, gente che si occupa dei Fab Lab, c'è tutto un grosso movimento intorno a questo Make in Italy, in particolare per i Fab Lab. Sul sito di Che Futuro ho trovato un bel articolo di quest'anno, tra l'altro, dove hanno fatto un'approfondita analisi, ma quando dico approfondita è molto approfondita, che è risultata in un report, un PDF che vi linkeremo, di un centinaio di pagine. Loro si sono occupati durante tutto l'anno scorso di contattare i Fab Lab italiani, che all'epoca erano un centinaio, e se non sbaglio una settantina hanno risposto, e sono riusciti a fare un'analisi bella dettagliata, tra cui, non so, vi posso dire che nei posti in cui c'è più in Italia il numero di Fab Lab per provincia, se non sbaglio il primo è Milano, secondo la mappa adesso, c'è Torino e la provincia di Roma. Quindi posti dove c'è la più alta concentrazione di posti fisici di Fab Lab. Quindi se voi volete cercare un posto del genere, siete a Torino, a Roma o a Milano, se ne avete uno a portata di mano, quindi vi consigliamo di prendere e andarci. Negli altri il resto dell'Italia ovviamente dipende da dove siete, ce ne saranno di meno, però ce ne sono molti in apertura quando vedo la mappa del Make in Italy, quindi loro vi danno anche l'idea di quelli che saranno aperti prossimamente. Comunque, bando alle ciance. Tra l'altro i dati di questa ricerca sono anche open, quindi se voi volete potete scaricarveli e rianalizzarli e dare un'occhiata se hanno, non so, tirar fuori qualche dato nuovo, correlarli con altre cose. Avete qualche idea carina, poi fateci sapere. Comunque, come dicevo, i Fab Lab per esistere, come dire, non possono semplicemente... Non possiamo alzarci la mattina, prendere un garage e dire: oh, ho fatto un Fab Lab. Sono una serie di regole, quindi una serie di macchinari e una serie di procedure che devono essere seguite se si vuole entrare nel network mondiale dei Fab Lab, il che ti dà la possibilità poi di poter seguire un progetto da tutto il mondo. Quindi se io comincio un progetto a Fab di Torino, so l'attrezzatura che ho usato, i programmi che ho usato, il software che ho usato, tutti gli oggetti fisici che sto usando, e quindi io posso prendere e riprodurre quel progetto da qualsiasi altro Fab Lab del mondo. Un Fab Lab di queste dimensioni, quello standard, si aggira come prezzi di macchinari intorno ai 100.000 euro. Questa è una cosa che mi ha stupefatto tantissimo. Ci sono anche delle possibilità di fare dei mini Fab Lab, perché non è una cosa alla portata di tutti, e quindi si parla di oggetti, di, come dire, laboratori con 10.000 euro circa di apparecchiature, che però per una persona che a casa al massimo un trapano e un saldatore già 10.000 euro di materiale a disposizione da poter usare, già mi sembra una cosa più che soddisfacente. Un'altra cosa che volevo sottolineare da questa ricerca, che non ho letta tutta, cioè ho letto solo le cose più importanti. La cosa che mi sembra importante sottolineare è che in America questo momento dei Fab aveva una forte impronta, come dicevo prima, di insegnare, quindi è molto legato alle università, ai centri di insegnamento anche in terza età, eccetera. Quindi c'è una forte impronta educativa, mentre nelle parti italiche, come da noi, ci sono anche alcune università che hanno collaborato e che sovvenzionano dei Fab Lab, però la maggior parte è partita dal basso. Quindi persone si sono riunite, hanno fatto delle associazioni in alcuni casi, hanno messo capitale insieme e hanno cominciato a tirare su un Fab Lab. Quindi a me sembra una cosa grandiosa. Cioè una cosa, come dire, partita dal basso con persone che hanno il piacere di fare insieme qualcosa. Francesco, se non sbaglio, quella dove sei stato tu, quindi il Fab Lab di Torino, si appoggia ad Arduino, se non mi ricordo Sì, male. allora, Ok. il FabLab è aperto al pubblico, cioè agli associati solo dalle 4 del pomeriggio fino alle 8 di sera, se non erro, perché fino alle 4 del pomeriggio è a disposizione di officine Arduino. Loro Ah, ok. lo hanno fondato, lo sovvenzionano e nell'intervista poi ci saranno informazioni un po' più precise a riguardo, e quindi loro durante il giorno ovviamente lo usano. Ah, ok, quindi okay, come modello di business c'erano robe che usano loro che poi danno a esposizione di persone che di provata competenza, quindi Sì, è ok. un allora il FabLab da solo non è un modello di business che si No, autosostiene. per niente, no. Perché per entrare fa 50 euro a testa e 50 euro a testa all'anno per fare questa cosa qua non è. No, Cioè infatti. non copre, forse non penso neanche la spesa di manutenzione dei macchinari. Tieni No. conto che usare i macchinari più complessi ha un costo. Ma Certo. non ti anticipo tutto perché sennò poi Esatto. l'intervista No, stavo facendo il conto non serve più. brutale, solo l'investimento di 100.000 euro diviso 50 euro di persone sono 2.000 soci, ma solo per comprare i macchinari, quindi poi il posto, la corrente, la manutenzione sono, cioè, è come avessi una fabbrica praticamente, lì a È disposizione di tutti. assolutamente assimilabile a un'officina, c'è l'assicurazione, devi usare gli strumenti di protezione, cioè è gestita molto molto bene. La cosa comoda è che c'è tutto, hanno qualunque tipo di attrezzatura. Ottimo, quindi bene, diciamo, direi che abbiamo detto tutto, potremmo anche lasciare spazio alla tua intervista, come abbiamo detto, la prima volta che facciamo un'intervista fuori sede, diciamo. Giusto, io mi sono portato tutta l'attrezzatura, c'è un po' di rumore di fondo perché eravamo nel Fab Lab, c'erano persone che lavoravano con la tagliatrice laser, ma direi che si sente bene. Allora, abbiamo contattato Stefano Paradiso, che è il responsabile del Fab Lab, lui è dipendente, lui è sempre lì ed è quello che si occupa della gestione del Fab Lab. A questo punto direi che vi possiamo lasciare all'intervista e torniamo dopo. Ok, a dopo. Ed eccoci qui nel Fab Lab di Torino, dove possiamo fare qualche domanda a Stefano, che ci ha dato la sua disponibilità per capire un po' cos'è e che cosa si fa nel Fab Lab. Ciao, ciao Stefano. Ciao ragazzi. Grazie per essere venuto qui ospite a Geek Cookies, vediamo di rubarti meno tempo possibile. Allora, volevo cominciare con una domanda un po' ampia, cioè: cos'è un Fab Lab e cosa si fa in un Fab Lab? Allora, il Fab Lab, come dice la parola stessa, è un laboratorio di fabbricazione digitale. Sostanzialmente un laboratorio nel quale ci sono a disposizione dei macchinari a controllo numerico, ma non solo, e questi sono lasciati ad operare a tutta la community che fa parte del Fab Lab per portare avanti i suoi progetti, eccetera, eccetera. Poi, ovviamente, il Fab Lab è basato sulla filosofia open source, per cui quasi tutti i progetti che vengono sviluppati all'interno del Fab Lab poi vengono rilasciati. La filosofia che si adotta è quella appunto della condivisione, per cui vengono fatti workshop che vengono tenuti anche dagli utenti stessi verso gli altri utenti. Quindi io, se ho un qualunque tipo di progetto che voglio fare, vengo qua, chiedo l'uso dei macchinari, faccio il progetto, ma col vincolo che il progetto poi resta disponibile per essere riutilizzato, o è un consiglio? No, è più un consiglio. Diciamo che il Fab Lab si propone di dare gli strumenti necessari per portare avanti i propri progetti. Gli strumenti sono sì macchinari, ma anche le conoscenze, ovviamente, per cui facciamo molta formazione sui macchinari stessi, per cui le persone vengono qui, persone di vario tipo, molto eterogenee, e possono sviluppare i propri progetti, possono trovare altre persone con quelle collaborare sul progetto stesso. Poi noi ci auspichiamo sempre che il progetto rimanga open source, ma non è un obbligo. Ok, perfetto. Quindi una persona qualunque può venire qui e dire: sentite, ho bisogno dei macchinari per il mio progetto. Sì, il Fab Lab è assolutamente aperto a tutti coloro che vogliono farne parte, da progettisti, designer, architetti, ingegneri o anche solo hobbisti. Poi, una volta che le persone entrano all'interno del Fab Lab, possono portare avanti il proprio progetto, il progetto di crescita, per cui hanno a disposizione i macchinari, prima ovviamente di utilizzare i macchinari devono imparare ad usarli, facciamo dei corsi gratuiti una volta che si è associati, e poi assolutamente sono liberi di usarli, e ci sono tutti quel filone di macchinari per la digital fabrication che hanno un costo in base al tempo di utilizzo, e poi ci sono tutta l'attrezzatura standard da officina che è utilizzabile liberamente, fino al banco d'elettronica, tutto ciò che è a disposizione nel Fab. Quindi io posso venire e posso fare quello che avrei fatto a casa mia nel garage, accorgendomi che mi manca quel cacciavite piuttosto che avrei avuto bisogno della sega circolare. C'è tutto quello che può servire per fare progetti di vario tipo, da circuiti elettrici SMD fino ad arrivare a fornice, per cui proprio mobili, arredo. Quindi a tutto spaziale, campo, sì. Vengo, voglio fare una qualunque, diciamo, cosa, qua si può fare. Esatto, che l'idea di Fab Lab proprio nasce con la filosofia almost everything, per cui si può fabbricare quasi tutto, e qui cerchiamo di perseguirla. Ok, nello specifico nel Fab Lab qua di Torino, i macchinari che sono disponibili oltre alla abbiamo diversi tipi di macchinari. Per quanto riguarda macchine a controllo numerico, partiamo da classiche stampanti 3D, tutte di natura open source, FDM, per cui stampanti a filamento, fino ad arrivare poi a una macchina a taglio laser a CO2 da 130 watt, per cui già è possibile fare delle lavorazioni importanti, però su materiali che spaziano da tessuti, pellami, legnami e plastiche, non lavorazioni su metalli. Poi abbiamo una fresetta piccola per poter fare piccoli prototipi di diverso tipo, o circuiti elettrici. Quindi con la fresa posso disegnarmi il mio circuito? Posso prototipare il mio circuito stampato, in questo caso non stampato ma fresato, però ha diversi vantaggi, dato che non devo usare prodotti chimici che poi devo smaltire, fino a uscire fuori direttamente con un circuito anche forato, se parliamo di circuiti full wall. E poi, come ti dicevo prima, arriviamo anche fino ad attrezzature importanti. Per esempio abbiamo un pantografo da 2 metri per 1,25 m che ci permette di fare lavorazioni anche sia su legnami e plastiche di vario tipo, ma anche per esempio lavorare l'alluminio. Ah, bene. Quindi poi si può spaziare anche sul tipo di materiale. Assolutamente. Su cui lavorare. per chi ha voglia di fare un po' più di sperimentazione, abbiamo anche un gruppo di ricerca che si chiama Digifacturing, che ospita e viene ospitato all'interno del Fab Lab e fa ricerca in ambito di robotica, per cui abbiamo anche un robot antropomorfo a 6 assi. Ah, quindi roba di un certo livello. Sì, con un 2,20 m di reach, un payload da 60 kg. E penso che non sia poi proprio semplice da programmare una non cosa tanto, però stiamo lavorando anche su quello, stiamo sviluppando anche il software. Poi, come vi dicevo prima, affiancati a tutta la strumentazione per la digital fabrication c'è tutta la strumentazione classica da officina, per cui abbiamo il trapanacolonna, la smerigliatrice, la sega circolare, la troncatrice, un tornio da legno e poi tutta la strumentazione anche per fare elettronica. Abbiamo l'elettronica col soldatore, alimentatore da banco, oscilloscopio, un po' tutto quello che serve. Adesso ti faccio una domanda un po' più difficile, ma la sostenibilità del progetto qual è? Nel senso, avete acquistato tutti questi macchinari, li usate, quindi sono soggetti a manutenzione, certo, usura, eccetera. Com'è che ci si paga queste allora, la sostenibilità spese? Di un Fab Lab è qualcosa di... è un buco nero ancora per la maggior parte dei Fab Lab. Io ti posso parlare della nostra esperienza nello specifico. Molto volentieri. Fab Lab Torino, prima ancora di essere Fab Lab, è il laboratorio di digital fabrication di Officina Arduino. Officina Arduino è un branch di Genuino ormai, come sì, vero, tutti che, voi... che ha cambiato nome. Come tutti voi sapete, e per cui è il laboratorio di prototipazione, ricerca e sviluppo di Officina Arduino stesso, che poi nell'orario pomeridiano, dal martedì al venerdì, apre sotto forma associativa anche come Fab Lab Torino, per cui Officina Arduino permette agli utenti dell'associazione di usare gli spazi e i macchinari del Fab Lab. Poi il Fab Lab di per sé contribuisce in parte alle spese o con alcuni macchinari eccetera eccetera, però ovviamente la maggior parte dei costi sono coperti in questo caso dall'azienda, e ci sono diversi Fab Lab che usano questo format, per cui quello di avere una parte aperta, libera, e l'altra parte cioè che aprono il laboratorio di un'azienda sotto forma di Fab Lab. Un Fab Lab completamente sotto forma associativa è difficile che riesca ad autosostenersi così da solo. Beh, perché penso che comunque l'investimento iniziale non sia da investimento da iniziale poco. Per avere, diciamo, una varietà di macchinari non è assolutamente indifferente. Penso che ci sono amici che hanno aperto dei Fab Lab con degli investimenti iniziali di 80-85 mila euro. Ah, quindi non qualche migliaio di euro, ma si parla di qualche decina di migliaia di euro. Sì, dipende un po' da cosa si ha a disposizione. Poi certo, se uno inizia ad aprire un Fab Lab con una stampantina 3D, qualche attrezzatura così, magari con 10 mila euro ce la si cava, però è limitato il range d'azione, soprattutto bisogna capire anche il luogo, le varie spese che ci sono. Sì, perché poi penso che un'officina debba sottostare a alcune leggi sulla sicurezza. Assolutamente. Quindi ci va tutta la parte di sicurezza più tutta la parte di manutenzione, a riscaldamento e corrente. Esatto. Roba assolutamente standard. Ma se io volessi venire, voglio imparare a tagliare con la stampante laser, vengo, faccio il corso, poi voglio usare la macchina. Quanto mi costa usare la macchina? Vabbè, magari ti racconto un po' più dall'inizio. Per venire al Fab Lab, al Fab Lab c'è una giornata di Open Day che è il mercoledì pomeriggio, dove le persone possono venire e curiosare, e se pensano che il Fab Lab faccia al caso loro, possono anche fare la tessera associativa, mentre gli altri giorni, dal martedì al venerdì, sono dedicati agli associati stessi, per cui è aperto solo per gli associati. La tessera associativa ha un costo variabile in base a se si è studente o meno, e costa 30 euro all'anno per gli studenti e 50 euro all'anno per i non studenti. Dura l'anno solare però la tessera, per questioni di quindi assicurazione. È 1 gennaio, 31 dicembre, se io arrivo, esatto, a ottobre pago 50 euro per gli ultimi, no, diciamo che facciamo uno sconto dopo luglio, però la tessera scade al 31 dicembre per questioni burocratiche dell'assicurazione. Okay. Poi ho inclusi nella tessera tutti i workshop base per imparare ad usare i macchinari, perché vanno fatti prima di poter utilizzare in modo indipendente il macchinario, almeno che non li si sappia già usare, perché lo si è imparato prima per lavoro o viene verificato, però è così. Inizialmente si è assistiti da qualche utente più esperto, dopodiché quando si è indipendenti si può prenotare la macchina e poi usarla in maniera del tutto indipendente. I macchinari hanno un costo che varia in base al tipo di macchinario, in base al tipo di utilizzo. Diciamo che per la macchina taglio laser è un euro al minuto il costo, però un euro al minuto di taglio. Per chi ha bisogno di fare magari delle piccole produzioni, abbiamo degli artigiani per esempio che la utilizzano in quel senso lì, la si può prenotare per un minimo di 2 ore, però prenotando l'ora intera, non più i minuti di taglio, alla metà del costo sostanzialmente, per cui 30-60 euro ma ho 2 ore, però è diciamo che è indirizzato a chi è già esperto, chi deve fare delle produzioni o comunque chi accumula tutti i tagli in quel lasso di tempo lì. Ok, ovviamente ogni macchinario a seconda del costo di manutenzione ha dei prezzi diversi. Di manutenzione, sì, e soprattutto anche di utilizzo. Per esempio la macchina taglio laser ha una manutenzione molto elevata, dei filtri, il consumo in corrente elettrica è decisamente molto elevato, le stampanti 3D hanno un costo decisamente molto inferiore, per esempio. Ok. Però sul sito del FabLab, sulla sezione macchinari, è spiegato tutto nel dettaglio. Metteremo tutti i link nelle note dell'articolo, così poi per chi è interessato si può andare a vedere. Una domanda particolare per chi lavora: come mai la scelta di non aprire il sabato? Perché per esempio per me che lavoro in ufficio, essere qua in settimana potrebbe essere un po' più complicato. Ma infatti adesso stiamo lavorando anche su quello, per cui dal prossimo mese apriremo anche al sabato, per cui è una cosa che faremo presto. È una notizia ottima, quindi potrei cominciare a pensare di diventare un associato, perché io ci ho pensato già parecchie volte, ma il fatto che l'orario... Certo. E soltanto in infrasettimanale mi ha limitato tanto, perché uscendo dall'ufficio alle 5:30-6 hai un'ora, sì. e non riesci a fare tutto quello, sì, che vorresti. Il FabLab di per sé chiude alle 8, poi quando ci sono degli utenti che già vengono da un po' di tempo e c'è tempo fino alle 10, diciamo. Un'altra domanda che mi sono posto: fate qualche cosa orientato alle scuole o ai più piccoli, o è solo per maggiorenni che sono in grado di capire che con la sega circolare ci si può far male? No, assolutamente. Come ti dicevo prima, il FabLab è molto trasversale, sia a livello di cose che si possono fare all'interno, di competenze, ma anche al pubblico a cui ci rivolgiamo. Infatti all'interno del FabLab stesso ci sono diversi cluster, diciamo diversi gruppi, e uno di questi è il FabLab for Kids, per cui è proprio un format studiato per i bambini a partire da 5 anni, dove ci sono dei ragazzi che sono appassionati di questi temi e cercano di trasmetterli ai più piccini, ai più piccoli, ma non sono tanto dei workshop di stampa 3D o di taglio laser, ma far capire come si possono usare queste tecnologie per produrre qualcos'altro, per cui sono molto interessanti e in genere vengono tenuti il sabato. il sabato mattina, e c'è proprio una persona che è specializzata in formazione per bambini che ha tirato fuori questo format. Poi collaboriamo molto con le scuole di vario tipo, dalle scuole medie passando per istituti professionali o di specializzazione fino ad arrivare alle università. Soprattutto su corsi di formazione o workshop dove si costruiscono delle cose. Poi, come ti dicevo prima, il Fab Lab è fatto di diverse anime, all'interno contiene diversi gruppi che fanno sperimentazioni a volte anche molto mirate. Per esempio all'interno del Fab Lab c'è l'AUG, che è l'Arduino User Group, ed è un gruppo che si incontra ogni due volte al mese, di mercoledì sera, e si parla sostanzialmente di Arduino. Lavorano su progetti di Arduino, per esempio ne hanno presentato appena uno alla Maker Faire di Roma, che è stato un concorso per Intel dove hanno tirato fuori un progetto molto interessante che si chiama PCBot, che è una macchina fisica che si interfaccia con Telegram. Ah, carino. Sfruttando un bot. Allora poi se hai il link me lo mandi, che lo pubblichiamo, perché su queste schede abbiamo gli ascoltatori che sono molto presi, anche il sottoscritto. Lo si trova tra l'altro sul sull'Instructables del Fab Lab, condiviso il progetto. Ma si passa ovviamente da Arduino fino ad arrivare al gruppo di biohacking che si chiama Vinto, dove appunto è un altro gruppo di ragazzi che si diverte a sperimentare non solo con l'elettronica o con la digital fabrication, ma arrivando proprio fino alla biologia. Per esempio, in collaborazione con altri ragazzi del Fab Lab, hanno sviluppato un macchinario che serve per monitorare le colture batteriche. È un macchinario che è stato sviluppato sia per con la IUN che per Raspberry, dove sostanzialmente viene scattata una fotografia ad intervalli periodici a queste colture batteriche per osservarne la crescita, e automaticamente in questo caso le foto vengono uploadate su Dropbox, per cui si possono controllare anche a distanza. C'è tutto l'interfacciamento anche con il cloud, di cui si parla tantissimo in questo periodo, il famoso IoT. Oppure c'è un altro gruppo che si chiama Audio Hack Lab, dove i ragazzi sperimentano tantissimo con l'elettronica applicata alla musica. È interessante. Quindi c'è roba per ogni gusto, per ogni settore, per ogni passione. E mi hai detto prima che siete comunque abbastanza integrati con Arduino o Genuino, come si chiama ora. Sì. E, per esempio, avete partecipato allo sviluppo e al test di Genuino 101, oppure è una cosa che qua non è arrivata? Allora, diciamo che la 101, come officina Arduino è una cosa, poi gli utenti del Fab Lab subentrano anche a volte come beta tester di prodotti Genuino, per esempio come è successo con Create, con Arduino Create, che è il leader web di Genuino. Sì, è quello che ho visto presentato alla Torino Maker Faire. È un progetto interessante. E diciamo che, essendo questo Fab Lab il laboratorio di ricerca e sviluppo di Genuino, a volte chiediamo agli utenti anche di fare da beta testing per prodotti hardware o fisici, però per la Genuino 101 non è avvenuta ancora, mannaggia. Perché è un mix fra Intel e Genuino. Sono lì che ogni tanto faccio il refresh su arduino.cc per vedere se esce in commercio. Non ci vorrà molto, speriamo. E invece parliamo di cose un po' più pratiche. I progetti più particolari che ti ricordi che sono stati fatti qua, perché se c'è tanta gente che viene, ci sono tante teste e soprattutto c'è un sacco di fantasia. quali sono le cose un po' più particolari che ti vengono in mente? I progetti, come ti dicevo prima, spaziano tantissimo. Qualcuno te l'ho già accennato, tipo quello di Microgazer che per monitorare le colture batteriche, ma abbiamo fresato bici in legno, il telaio di una bici in legno per esempio, il progetto si chiama Rootless, fino alla progettazione di macchinari veri e propri, stampanti 3D, macchina a taglio laser, ma anche arrivando a, per esempio, ci sono delle ragazze che sono venute qui e hanno tagliato dei bikini a laser, per cui si spazia veramente dall'elettronica al taglio e cucito, però il tutto applicato alla digital fabrication, per cui campo di dove investighiamo tanto e i progetti proliferano tantissimo. E quindi per chi fa un progetto e desidera renderlo disponibile, c'è una parte sul vostro sito con tutte le informazioni, giusto? Assolutamente sì, diciamo che noi in genere spingiamo ad usare GitHub o Instructables o piattaforme già preesistenti, però poi i progetti che vengono sviluppati all'interno del FabLab, se gli utenti sono d'accordo, noi li mettiamo nella sezione del portfolio dove... Okay. Si trova chi ha fatto il progetto e il link dove poter scaricare il tutto per poterlo replicare o contribuire al progetto stesso. Perfetto. Chiudiamo con una nota di attualità. So che siete stati alla Roma Maker Faire. Volevo sapere se girando tra i vari stand avete visto qualche cosa di veramente particolare, perché io non ci sono andato e mi sono mangiato le mani, visto che siete stati lì, magari oltre alla presentazione in pompa magna del nuovo Genuino, magari se avete visto qualcosa che vi ha colpito particolarmente. Guarda, qualcosina ho visto di interessante, però premetto che ho girato pochissimo, avrò girato un paio di padiglioni al massimo perché ero nello stand del FabLab, però c'è un progetto molto bello che ho visto, è di una fresa portatile che si può montare direttamente sul pannello stesso ed è il prodotto di un ragazzo che ha frequentato la Fab Academy l'anno scorso a Milano. E tra l'altro colgo l'occasione anche per dire che quest'anno la faremo anche a Torino. Interessante. Potrebbe essere interessante per chi di voi sa che cos'è la Fab Academy, fino ad arrivare a una matita fatta dal recupero di un'azienda della grafite per la produzione di carboncini sostanzialmente, ed era un progetto molto, molto interessante perché c'è tutta una sperimentazione sui materiali, sull'iniezione di questo impasto qui, fino ad arrivare poi al progetto per esempio di una barca che era veramente era veramente una barca che ci si poteva fabbricare all'interno di un Fab Lab e affrontare il mare, diciamo. Ah, quindi davvero pronta? Davvero pronta. Bene, quindi il limite davvero è la fantasia e quanto si vuole investire nei materiali. L'impegno. Essenzialmente. Perfetto, ti ringrazio molto, ti ringrazio a nome di tutti gli ascoltatori di Geek Cookies. Non ti nego che ci si potrebbe vedere se cominciate a aprire il sabato, ci verrei davvero molto molto volentieri. Grazie per il tuo tempo. Ciao, grazie a te. Ciao ciao. Perfetto, grazie mille alle officine Arduino che ospitano il Fab Lab di Torino e al Stefano Paradiso che in particolare è quello che ti ha ospitato. Quindi dai, la cosa mi è sembrata davvero davvero molto interessante, loro mi sono sembrati molto ospitali, cioè ti hanno permesso di andare lì a fare domande mentre loro ormai dovrebbero stare lì a insegnare alla gente cosa fare. Come ti è sembrato? Come ti è sembrato come ambiente? Allora, tieni conto che quel giorno lì era un giorno dedicato solo ai soci, quindi non c'era tantissima gente, era... Il posto è abbastanza tranquillo e caratteristico, è veramente figo, ti fa venire voglia di dire adesso vengo a farli qua i miei progetti. Il fatto che comincino a lavorare anche di sabato è una cosa interessante, perché per me essere lì il pomeriggio dopo il lavoro significa che entro e esco dopo un'ora, è un po' triste. E tra l'altro non stai a casa proprio, cioè quello è un altro problema anche per me. Infatti, invece se tipo vai il sabato può cominciare a essere molto interessante. Il posto sa di officina, cioè tu entri, c'è l'odore del legno bruciato dal laser, ci sono tutti gli attrezzi, ci sono questi banconi, è un'officina tenuta benissimo e pulita, fanno i corsi lì, quindi hanno l'aula corsi, hanno dei gruppi come avete sentito per chi fa hacking di parti audio, cioè fanno dei gruppi molto specializzati, fanno dei workshop, è una cosa molto molto molto attiva, hanno anche cose per i bambini come avete sentito, quindi se avete un bambino che si diverte a costruire, fare, disfare, magari potete portarlo lì e scoprire la sua vena da maker anche da più piccolo. Ma se mi avessero portato da lì da piccolo, a parte che non sarei più uscito, l'avrei amata come cosa. Bellissimo, verissimo, verissimo. Fantastico. E tieni conto che stare lì a me ha fatto venire il pensiero di andare e associarmi, perché secondo me è interessante davvero le cose che fanno lì. Poi il fatto è che il tempo è sempre un esatto. po' quello che è, e quindi il vantaggio qual è di andare lì? Che non sei distratto dalle mille cose che fai a casa normalmente. Giusto, figli, cani, gatti, pulire. Ma anche solo banalmente, tu devi lavorare e hai quello che ti contatta su Hangout, quello che è la notifica di Twitter, hai il telefono che squilla di qua di là, lì sei lì solo per fare quello. Non è un lavoro, però è roba tua e... Due sì. ore di concentrazione rendono più che una domenica intera a casa piena di distrazioni. No, sono d'accordo, perché alla fine anche il fatto di staccare fisicamente tra casa è come il lavoro, tu vai lì per fare quella cosa, quindi dici oggi voglio starci 2-3 ore e voglio finire questo progetto, questa parte, e fai quello. Secondo me è una cosa molto, anche per me è soddisfacente quando riesco a fare una roba del genere, però anche io sono sempre distratto da mille cose. Ottimo, quindi sono davvero contento che siamo riusciti a fare questa roba e che tu sei riuscito ad andare lì e a registrare. Tra l'altro io non mi sarei fidato di fare una cosa del genere da solo. Perché no? E non sono mai andato in remoto a fare registrare gente. Tra l'altro con un microfono l'hai fatto, no? Col tuo. Ho portato il mio. Ci siamo messi davanti al mio Rode podcaster e abbiamo registrato lì. Ma tu hai un microfono da padre eterna, quella è la differenza rispetto a noi poveracci. Ma sai cosa? È un po' scomodo da portare in giro, perché è veramente grosso ed è pesante. C'hai controller sul microfono pure, se non mi ricordo male, no? No, l'unica cosa che c'è di attivo sul microfono è il ritorno della cuffia senza nessun tipo di ritardo. Ma lì l'abbiamo fatto senza le cuffie, perché ne avevo soltanto una, e quindi abbiamo fatto l'intervista così, direi che ha funzionato. Sì, Mac, Audacity e microfono. Ottimo, ottimo. Perfetto, quindi devo dire, io sono soddisfatto, mi hai dato anche quasi l'idea di andare. Dopo la tua avventura, ho visto anche qui a Berlino, cioè, ci sono FabLab ovviamente, e penso che ce ne sia uno anche molto grosso, quindi appena avrò tempo, cioè mai, però almeno un salto ce lo faccio, almeno per vedere cosa hanno e come funziona. Ricordami solo una cosa, tu dicevi che nel pomeriggio, cioè l'orario in cui sono aperti è il pomeriggio, ma è aperto, cioè tu ci puoi andare solo se ti associ, oppure anche io come mero visitatore posso almeno andare a dare un'occhiata? Che allora lì puoi andare a vedere com'è il Fab Lab in un solo giorno, mi pare che sia il mercoledì. Se invece vuoi andare per lavorare devi diventare socio, sì. Vabbè, è più un fatto di assicurazione, esatto, perché volevo dire. Se tu ti fai male là dentro e non sei assicurato è un casino. Fatti tuoi. No, vabbè, ovviamente loro vogliono anche tutelarsi, immagino, queste cose, cioè è normale, lo capisco. Ok, quindi tu puoi andare come ospite a vedere, quindi non puoi fare nulla, però vedi come funziona tutta la storia. Sì, e tieni conto che prima di poter operare su qualunque dispositivo devi fare il corso. Ok, perfetto. Quindi la cosa mi sembra perfettamente adeguata per il target dei nostri ascoltatori. Quindi se avete un Fab Lab in distanze, come dire, copribili comodamente, cioè avete qualche progetto interessante, immagino che potete anche trovare lì supporto. Quindi sia assolutamente sì, e tenete conto che, come avete sentito dall'intervista, loro spingono, cioè ti invitano a fare il tuo progetto e a pubblicarlo e a renderlo open. Ah, esatto, quello è, sei vincolato a questa roba? Se io avessi... No. Okay. È la prima domanda che gli ho fatto, giusto. Non c'è il vincolo, loro ti invitano a, ma non è necessario. No, perché se io avessi un'idea di business per qualcosa e vorrei mettermi lì e produrre la mia roba da loro, che è più comodo. Quindi diciamo può essere anche come uno starter per uno che vuole cominciare un'azienda e fare robe hardware. Sì, tieni conto che si può noleggiare il macchinario anche per slot di tempo lunghi, cioè tipo per 2 o 4 ore è mio e ci faccio produzione. Ah, quindi quello potrebbe anche essere un modello di business per loro, quindi affittare tempo macchina per... Sì, costa tipo la macchina laser, come avete sentito nell'intervista, costa 1 euro al minuto per piccoli tagli. Uh-huh. Se no, se fai 2 ore fa 60 euro. Quindi, vabbè, no, però per 2 ore continuative, se non tagli, comunque paghi. Vabbè, per 2 ore potresti fare tipo quella che era un film di Superman in cui cercavano di tagliare una donna con laser, una roba del genere. Ah, non me lo ricordo. Mi sa che era un film di Superman in cui cercavano, cioè quello, ci aveva affittato al Fab Lab un bel laserone per tenere acceso 2 ore. Tanto si paga sempre uguale, quindi va bene. Giusto, vero. Ok, bene, direi che abbiamo eviscerato l'argomento profondamente, detto le nostre baggianate come al solito all'inizio, quindi io sono soddisfatto di questa puntata. Tu che bene, ne pensi? Bene. Hai qualcos'altro da dire, caro? No, direi che abbiamo detto tutto quello che serve. Spero di aver fatto venire voglia alle persone di andare a cercarsi il Fab Lab vicino a casa. Esatto, vi metteremo ovviamente i link, quindi se davvero, se avete tempo, se ascoltate questo podcast, naturalmente vi piace come dire, toccare oggetti, romperli, se avete idea di progettare qualcosa, cercate davvero un posto del genere, almeno per andare a vedere, perché in questi posti, come ho visto io, ti viene proprio l'ispirazione di fare robe nuove. Quindi anche tu hai una mezza idea, o se non ne hai, ti vengono, stai lì e guardi gente che fa altre cose, sei ispirato a produrre, stimolato a fare cose nuove, quindi... Ma soprattutto tu parli con altre persone, condividi le idee, fai quello che si chiama networking e magari ti accorgi che c'è qualcuno che stava pensando a una cosa molto molto simile alla tua. Tu hai un pezzo di idea, lui ha l'altra, ci si mette insieme, buon fatto. Infatti tutto questo qui, la cosa, come dire, triste del giorno d'oggi è che nonostante tutti questi mezzi per comunicare che abbiamo, capita raramente. Cioè noi perdiamo spesso solo tempo comunicando con gli altri, ma mai costruendo qualcosa, tranne rari casi. Cioè tipo, noi siamo conosciuti tramite podcast e tramite social network che ci siamo messi a fare un podcast, per esempio, però capita raramente. Quindi socializzare, vedere persone, parlarne, secondo me è il primo passo per fare qualcosa di bello. Sì, e soprattutto quando ce l'hai a portata con la tua stessa passione, è un circolo virtuoso. E la cosa migliore di tutte, io l'ho visto in questi ultimi periodi, è nei coworking. I coworking sono dei pozzi senza fondo di idee, sono veramente veramente spettacolari. Cioè la gente condivide quello su cui sta lavorando, ascolta le idee degli altri. Quando tu hai tante teste che pensano, c'è qualcuno che l'ha pensata diversamente da te e trovi magari lo spunto giusto per un miglioramento. Giusto, ma coworking intendi quei posti dove lì si va, cioè dove tu puoi prendere un posto per lavorare insieme ad altri? Sì, tu Ok. affitti Sì, la scrivania, stanza. il tuo tavolo, però poi hai un sacco di contatti con altre persone. Ci sono degli eventi dove ci si incontra e si parla di quello su cui si sta lavorando. Ok. È interessantissimo se uno fa attività da freelance, ma non solo, e ora andiamo un po' fuori tema, però secondo me qua con il Fab Lab ci stava pure. E nei coworking ci sono delle società che mettono delle persone dentro. Perché questo? Perché se tu hai una società X che sta lavorando su un progetto, prendi due persone di questo progetto, le metti in un coworking a lavorare, loro parlando con gli altri ne escono arricchiti. La cosa funziona molto molto bene. Questo lo fanno solo aziende piccole e lungimiranti, perché aziende Avevo grosse. sentito che a Torino c'è qualche persona della Coca-Cola o una Ok. roba simile, quindi roba anche grande. Ok, quindi ok. Cioè, sono infiltrazioni di grosse company anche per cercare di attingere alla vitalità dei piccoli e delle Sì, persone. poi Figo. nessuno vieta che la tal azienda si accorge che quel libero professionista ha delle idee molto buone e lo ingaggia per un progetto, perché no? Ok, quindi un altro consiglio. Però questo penso che succeda solo nelle città grandi. E guarda, io so che i coworking ora stanno crescendo abbastanza, è una cosa in evoluzione e in crescita. Io so che per esempio fuori Torino ce n'è. Non solo Ok. in Torino, in Torino si stanno moltiplicando e la gente va. È interessante, se si è un freelance e si riesce a mantenere, ad avere degli introiti per mantenersi 150 € al mese per un coworking, ne vale veramente la pena. Ok, è una cosa che io ho sempre pensato perché qui dove sono io ce ne sono un sacco. Però, tipo, quando non vado al lavoro, spesso mi metto in un bar con internet, mi siedo, il classico tipo Starbucks, mi siedo e faccio le cose mie. Però sei molto isolato perché non c'è interazione. Verissimo, se invece vai in un coworking, tra l'altro almeno qui a Torino i livelli sono diversi, c'è il posto base che non è altro che loro ti forniscono un posto su un tavolone, la connettività, la corrente, tu ti porti il portatile e lavori lì, non hai un tuo angolo. Il posto libero Ok. che ce l'occupi e mi pare che faccia un centinaio di euro al mese. Hai il riscaldamento, hai internet, hai la corrente per il PC, ti porti i tuoi appunti, ti metti lì Lavori. e lavori. Chiacchieri con altre persone, hai delle relazioni sociali, vai al bar, conosci gente nuova. Ormai il lavoro moderno è composto dalle relazioni sociali. Interpersonali. Tu più conosci gente, più hai delle idee, più magari usi quella gente per il tuo lavoro, la coinvolgi. È una modalità veramente interessante. Se siete liberi professionisti e lavorate a casa e ve lo potete permettere, perché comunque è un costo, fate 3 mesi lì Beh, e le cose cambiano. alla fine sarebbe invece di affittarti uno studio, come fanno molti, li paghi per andare lì. Esatto. Giusto, e nello studio sei solo. Lì hai il contatto con le altre persone, hai le sale riunioni, hai le fotocopiatrici. In uno dei coworking là vicino al Fab Lab a Torino c'è l'angolo per telefonare, è una stanzetta insonorizzata di tipo 60x60. Tu entri e c'è il silenzio, è bellissimo. Bello, cosa che E non trovi mai. no, giusto. E hai la sala riunione da 4, quella da 8, quella da 12 persone. E se spendi un pochino di più, hai il tuo tavolo, i tuoi cassetti, dove tu, se hai un desktop, lo lasci lì e diventa il tuo ufficio. Ok, quindi ti puoi fare È il molto molto tuo. figo. Bello, è un'idea. Qualche volta, casomai, invece di andare al bar, quindi cercherò di mettermi in un posto del genere, però Io devo lavorare, non posso stare lì a parlare con la gente, quindi. No, beh, devi vedere quanto costa. E secondo me il fatto di avere un po' di networking con gli altri ti aiuta magari a lavorare sul tuo progetto. A Torino fanno dei pomeriggi dove ognuno ha 10 minuti per presentare la sua idea, ah, e tutti quanti gli fanno domande. È bellissimo. Ok, ottimo. Quindi un altro bello, un'altra cosa interessante per i nostri ascoltatori. Ottimo. Oh yes. Quindi direi che possiamo chiudere a questo punto. Sì, direi che abbiamo detto abbastanza per tutti. Ci vuoi deliziare tu o ci penso io? Dunque, vai. Come ci potete trovare? In un sacco di modi diversi. Sicuramente siamo molto attivi su Twitter con l'account GCookieCast, lo usiamo tutti e tre, rispondiamo anche abbastanza in fretta, mettiamo news e queste cose qua. Se ci volete scrivere qualcosa di un po' più lungo, ci trovate a gcookiespodcast@gmail.com. Il nostro sito gcookies.github.io, dove mettiamo le note dell'episodio. In questo episodio qui metteremo anche le 4-5 foto che ho fatto al FabLab. Ci trovate sulla pagina Facebook GCookieCast. Ci trovate su Google Plus come GCookies o nella community di Google Plus GCookies Podcast, fin tanto che Google Plus sarà viva. Ci trovate su iTunes, se mettete qualche stellina noi siamo molto molto contenti. In più, se in questo caso non penso che ne metteremo, ma nel sito potreste trovare dei link ad Amazon. Sono dei link particolari che, se voi comprate tramite quei link, una piccola percentuale va a noi per finanziare le nostre spese del podcast, per esempio il microfono di Massimiliano che abbiamo preso qualche mese fa. Grazie a voi, grazie ancora. Assolutamente sì. Se entrate su Amazon con questi link e poi vi comprate qualunque altra cosa, anche l'automobile nuova, a noi arriva una piccola percentuale e voi non spendete niente di più. La sigla è presa dalla piattaforma Jamendo, il gruppo è quello dei Pornophonic. E la canzone è Sad Robot e ovviamente è rilasciata sotto Creative Commons. Per questo motivo noi vi diciamo tutti i vari crediti. Vi ricordiamo che fino a inizio 2016, se non erro fino a febbraio, dobbiamo poi chiedere bene ai signori di Udo, c'è uno sconto del 10% e spese di spedizione gratis su qualunque ordine fatto sullo shop di Udo. Scrivete gcookies come codice sconto. Se lo fate e non è valido, ditecelo che ci informiamo. A novembre c'è la Udo nuova, quindi potrebbe essere un ottimo modo per ordinare la nuova scheda. Così oggi faccio un pensiero anch'io, adesso che me l'hai ricordato. Io stavo cercando di convincere Michelangelo a mandarcene una mano, ci sono riuscito. Ah, come test dici? Però. Eh sì, gliela volevo chiedere per il Linux Day, ma non siamo riusciti poi a organizzarci. Al Linux Day non abbiamo fatto l'angolo maker, quindi è stato... Ah, mannaggia, sarebbe stata una bella idea. Sarebbe stato molto molto furbo, ma sono quelli del Linux Day che non mi hanno dato retta. Vabbè, l'anno prossimo diventeremo più grandi e potenti e faremo... Vediamo, sì. Faremo che Cookies Day direttamente. Sponsorizzeremo il Linux Day. Dai. Ottimo, quindi ti ringrazio, ringrazio tutti gli ascoltatori e dai, a risentirci. Ci sentiamo la prossima puntata, che sarà poi l'ultima del 2015. Grazie per l'ascolto e alla prossima. Ciao.